qui è Pablo da Cannes, in nome degli intermittenti e precari in lotta. L'occupazione delle città continua, anche se piano piano il festival sta chiudendo le porte, sta smontando tutti i paviglioni principali, il mercato del film è chiuso e si aspetta la cerimonia ufficiale per domani. Tutto sommato oggi abbiamo fatto una conferenza di stampa in cui abbiamo fatto il nostro bilancio, che è tutto sommato positivo, abbiamo fatto parecchie azioni, siamo riusciti ad introdurci in vari canali di televisione, siamo riusciti a interrompere alcune dirette, siamo riusciti a mobilizzare il più possibile dei cineasti, soprattutto europei, italiani, tedeschi, siamo riusciti a vendere i nostri badge, a far salire la scalinata a quasi tutti i giornalisti con i badge, siamo riusciti in ogni caso a portare avanti le nostre rivendicazioni in maniera chiara e pacifica. Gli scontri che ci sono stati questo weekend, il prefetto della polizia si è scusato pubblicamente per quello che è successo, dicendo chiaramente che è stata una provocazione dei giornalisti, secondo lui, e che non hanno saputo fare la differenza tra giornalisti e intermittenti, e che comunque le denunce esposte nei confronti degli intermittenti sono state probabilmente levate e 5 denunce sono state esposte contro la prefettura. E quindi dicevo, il bilancio è tutto sommato positivo, anche se chiaramente nessuno di noi si rendeva conto che Cannes è una macchina talmente enorme e infernale, con le finte dirette di Canal Plus che in verità sono in differita di 20 minuti, con tutti i suoni delle stazioni televisive intorno che sono registrate, con della pressione da parte dei produttori di diversi film, tra cui anche i film in selezione, incredibile, cito giusto Agnès Jaoui, una regista che ci aveva molto sostenuto durante la lotta, che fra l'altro ci ha pure pagato la metà di un pullman che è sceso da Parigi, che ha pubblicato un articolo molto ambivalente, non molto chiaro, domenica scorsa su Libération, in cui più o meno dice i suoi film non sono politici e che effettivamente sostiene così a volte il movimento, ma non troppo, insomma le pressioni sono fortissime e dappertutto. Noi pure stiamo preparando l'After Cannes, a partire dal lunedì in diversi cinema a Lione inizieranno delle nuove azioni, notamente tutto il circuito di distribuzione indipendente occuperà dei cinema ufficiali per fare una settimana di occupazione che si chiamerà l'After Cannes a Lione. A Parigi stiamo preparando delle azioni e quindi il bilancio chiaro per noi è che il ministro si è mosso, il ministro ha preso atto della nostra presenza, l'unica misura d'urgenza che ha organizzato il ministro per ora è quella di reintegrare le donne in maternità che hanno perso i loro diritti. Questa è l'unica cosa sicura su cui è uscita una circolare del Ministero. Dopodiché noi aspettiamo ancora 3 altre misure d'urgenza di cui il Ministro dice di volerle fare il prima possibile, di cui non abbiamo visto ancora nulla, e dopodiché continuiamo a gridare ad alta voce che vogliamo una expertise, un esame chiaro del nostro modello fatto verificato da qualcuno di neutro e non dal governo, e continuiamo a chiedere l'abrogazione della riforma.